gira il mondo gira e va, che non è mica tondo, perché è schiacciato là. La coppa dei campioni della stupidità, quante rivoluzioni sono finite là. La scuola del futuro, quella dei figli miei, dove è crollato il muro, ma 3 più 3 fa 6. Gira il mondo gira e va, che non è mica tondo, perché è schiacciato là. La nuova medicina, tutti ci salverà, io cerco la titina, chissà dove sarà. Gli anni della paura sono a 2 passi ormai, mamma mia che avventura se la racconterai. Gira il mondo gira e va, che non è mica tondo, perché è schiacciato là. La settimana bianca, l'estate giù alle Hawaii, e la fantasia non manca, se i soldi non ce l'hai. La guerra in Medio Oriente, come tanti anni fa, e non cambia mica niente, sì certo un po' l'età. Gira il mondo gira e va, che non è mica tondo, perché è schiacciato là. Gira il mondo gira e va, che non è mica tondo, perché è schiacciato là. Così mi faccio un bicchio e non ci penso più, la luna su è uno spicchio e tu dove sei tu? Mi resta una canzone e in testa un po' di bua, canto alla mia illusione, canto alla faccia tua. Gira il mondo gira e va.